Vuoi svegliarmi alle 7 di mattina? Non mi suonare se non cerchi me. Non sgomberare adesso la cantina, quando sai bene che io faccio le 3. Così è iniziata male la giornata, probabilmente mezza rovinata. Mi torna in mente quello che ho sognato, guardando il frigo semivuoto. Quanto vorrei riaddormentarmi un po', tornare al sogno dove l'ho lasciato. Ma son passati almeno 40 anni da quando, se volevo, ci riuscivo. Quando tutto andava bene, perché andava bene tutto. Quando tutto era un cortile che sembrava una città, e lenzuola colorate dove appendersi e volare. Tu raccontami un segreto, dopo io ti insegno un gioco, o corriamo se ti va. Potrà bastarmi vedere che c'è il sole, o sollevarmi l'odore di caffè. Sapessi ancora fare capriole, girare il mondo che gira intorno a me. Questa giornata che durerà una vita, con una che peccato è già finita. Quando tutto andava bene, perché andava bene tutto. Quando tutto era un pensiero che sfidava la realtà, su nel cielo un aeroplano, sopra l'albero un bambino e il rimbalzo di un pallone da calciare in 100.000, chissà dove arriverà. Quando tutto andava bene, perché andava bene tutto. Quando tutto era un cortile che sembrava una città, su nel cielo un aeroplano, sopra l'albero un bambino, il rimbalzo di un pallone da calciare in 100.000, chissà dove arriverà.